piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Gli è capitato di dire in queste settimane: provate a immaginare se Codogno, anziché in Lombardia, si fosse trovato in Campania. Che sarebbe successo in Italia? Ci avrebbero tappato la bocca per altri 30 anni. Poveri uomini che cercano di offendere ancora la dignità del Sud, la dignità della Campania, la dignità di Napoli. Le colpe ci sono state, andranno appurate. Posso dire una cosa però che sento in tanti commenti. Sento qualche volta un astio e una crudeltà veramente eccessiva. Mi sembra, non so se è l'odio per i primi della classe, perché è la regione che produceva più di tutti, però Milano e la Lombardia meritano giudizi sereni. Ci sono stati errori, li vedranno, però si sente continuamente un fastidio e un odio che Milano e la Lombardia, che sono terre di dolore in questo momento, non meritano. Io, e me ne è testimone chi mi ascolta con attenzione in questi ultimi mesi, ho sempre un po' sorriso all'indirizzo di quelli che dicevano: tutto cambierà, nulla sarà più come prima. Più o meno non è cambiato molto, se non c'è una maggiore percezione di uno stato di angoscia, di crisi. Ma qualcosa però è cambiato, qualcosa che sembra appartenere comunque a una realtà distopica, a un mondo parallelo, sembra di essere in quei film ispirati dalla narrativa di Philip Dick, in cui il mondo cambia, si immagina in un suo romanzo Philip Dick, che poi è stato anche un noto sceneggiato televisivo in onda su Amazon Prime, che la guerra l'avessero vinta giapponesi e nazisti, quindi l'America divisa a metà, a New York c'erano i nazisti, a Los Angeles i giapponesi, quindi il mondo sembrava diversissimo da quello che ci immaginavamo. Beh, dopo il Covid un pochino qualcosa è accaduto. Ieri sull'Huffington Post Ferruccio De Bortoli, ex illustre direttore del Corriere della Sera, si piange addosso dicendo: inaccettabile lo spirito antilombardo, quel disagio, razzismo, gli errori commessi non giustificano l'arroganza nei nostri confronti. Insomma, la Lombardia si sente colpita da una sorta di discriminazione locale, da un pregiudizio, più o meno dallo stesso pregiudizio che in realtà nei decenni precedenti ha colpito le regioni del Sud. Improvvisamente, diciamo, anche il più laido sistema di espressione di una critica basata sul pregiudizio locale si è trovato a doversi difendere delle stesse accuse che venivano normalmente fatte agli abitanti del sud Italia. Ora, l'Italia, sappiamo, dal 1861 è una nazione unica, ma è sempre rimasto comunque una sorta di elemento divisivo nella valutazione tra sud e nord. E in particolare c'è un movimento di riscatto del sud che vede questa unione dell'Italia come in realtà una grande ingiustizia, un grande paradosso che in realtà ha capovolto nel 1861 quello che erano i rapporti di forza. C'era un sud evoluto, avanzato, civilissimo, tecnologicamente e socialmente moderno rispetto al nord, che era ancora arretrato, rurale, arcaico, imparagonabile quello che era Napoli rispetto a quella che poteva essere, non so, Milano prima del Risorgimento, anche Torino prima del Risorgimento. E improvvisamente c'è stato questo grande saccheggio del sud. Attualmente chi si fa portatore di questa idea, in questi mesi di reclusione che avrà condiviso con il resto dell'umanità, non può che essersi fregato le mani e dire: oh, finalmente si accorgono anche quelli del nord cosa vuol dire essere discriminati, e si accorgono anche loro cosa significa dire: voi lombardi siete quelli che portate la pestilenza, portate la peste per colpa vostra, avete una sanità che fa buchi da tutte le parti, vi siete assembrati, avete fatto le feste sui navigli quando non bisognava farle. Insomma, un piccolo e anche giustificato movimento di orgoglio terrone non poteva che concretizzarsi in un'opera. Ricordate, io più volte ho avuto ospite Pino Aprile. Pino Aprile è un giornalista, uno scrittore che penso abbia scritto poi mi dirà lui esattamente, 13, 14, 15 libri sull'orgoglio Terrone, proprio su questa formula che in realtà c'è stato un grande tradimento del Sud, una storia da riscrivere totalmente. E naturalmente Pino Aprile non poteva che aver impegnato questi mesi nel scrivere il suo libro nel nord, che si trova improvvisamente nelle condizioni medie che si trovava un abitante del sud, doveva sempre giustificarsi comunque per una sorta di pregiudizio territoriale. Oggi infatti in libreria il nuovo libro di Pino Aprile per l'editore Pieno Giorno, Il male del nord, perché o si fa l'Italia da sud o si muore. Questo è il nuovo libro sui Terroni dopo la pandemia. Pino Aprile, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, però tu hai messo nel titolo una parafrasi della famosa frase che Garibaldi disse a Nino Bixio alla battaglia di Calatafimi: si fa l'Italia o si muore. Come mai questa contaminazione del nemico pubblico numero uno del sud che è Garibaldi? Beh, perché intanto quella frase, a quanto risulta, non è mai stata detta. In realtà pare che la vera frase sia stata: qui non possiamo andare né avanti né indietro. Cioè, poi di frasi così ad effetto la storia ne ha prodotte tante a posteriori, diciamo, vanno bene per i titoli dei libri, per le lapidi. Quello fotografa... Senti Pino, una cosa sola ti dico, così cominciamo subito, intanto istighiamo il pubblico a chiamare 800 24 00 24, come la vedete questa sorta di storia capovolta, poi durerà per il tempo che durerà, ma in questo momento la percezione è questa. Pino Aprile, che è stato direttore di importanti testate con sede al nord, se lo sarebbe mai aspettato che il suo collega Ferruccio De Bortoli facesse questa sorta di... detto simpaticamente, ma in realtà è piagnisteo del nord vituperato e denigrato rispetto dal sud che lo guarda con occhio critico. Tu saresti mai aspettato di leggerlo? Ma onestamente no, perché io me l'aspetto, come dire, da in generale, da una sorta di come dire, cultura un po', non voglio dire becera, ma insomma un po' superficiale del nord. Non me lo aspettavo da Ferruccio, che conosco da quasi 40 anni, lavoravamo sullo stesso corridoio alla Rizzoli, eccetera. Perché siete stati anche colleghi, infatti. Sì, perché è uno dei più attenti, anche come dire, dei più sottili nell'analisi. E infatti questa uscita di Ferruccio De Bortoli, un po' anche quella di Beppe Severgnini, ma se vogliamo come dire, Beppe più dentro quella cultura padana, non vorrei scendere in dettagli, ma poi c'è stata una difesa d'ufficio generale, anche istituzionale, sì. Figuriamoci, si sono dovuti scusare per aver detto che qualcosa non funzionava. È una sorta di lesa maestà che mai era avvenuta nella storia del paese, però con questa virulenza, soprattutto con questo margine ampio di pregiudizio rispetto alla realtà. Sì, parlano addirittura di astio del nord, razzismo verso il nord. Io mi sono permesso di invidia dire, sociale, viene detto, invidia sociale. L'invidia come i poveri Terroni invidiano classe. Gli industriali, finalmente hanno la loro vendetta. Ma per carità. Allora, ma il tuo non è un libro sulla vendetta, però, è un libro anche sul paradosso. No, ma la Lombardia è la regione sintesi d'Italia. Ci sono 10 milioni di abitanti e sfido chiunque ascolti a dire se non ha qualche parente lì. Ce l'ho anch'io, ho proprio mia figlia lì, c'è tanti cugini lì. Che cosa sta avvenendo? È un fenomeno culturale importantissimo da studiare ed è un peccato che venga sottovalutato. Lasciamo perdere quello che dicono gli invidiosi Terroni che godono dei guai della Lombardia, ma non diciamo sciocchezze. Leggiamo cosa scrive Los Angeles Times: gli errori commessi dalla Lombardia verranno studiati per anni. Il disastro lombardo è un disastro epocale di livello mondiale. Los Angeles Times è il paese che ha scritto la lettura dell'Italia dopo la dimostrazione di incapacità offerta da gran parte del nord, ribalta la lettura storica del paese. Rimane la frattura nord-sud, ma sono capovolti i valori tra nord e sud. Guarda, se voglio essere eco, però loro hanno avuto dei focolai terrificanti che infatti non sono verificati al sud, quindi diciamo il problema, la patata bollente, se così vogliamo chiamarla, del Covid, con i morti tanti, con le file di bare, si è dovuto gestire il nord, il sud, no, forte dell'esperienza, si è potuto, diciamo, non che il sud nord, non il nord, attento, la Lombardia. La Lombardia, cioè, sì, la Lombardia. No, oggi è diverso perché il nord accomuna la Lombardia al resto del nord, che non era oggi, proprio oggi, in questo momento, esce Le Monde in Francia con uno speciale sul disastro Lombardia. Sì, è vero, Lombardia è centrato, non facciamo di ogni erba un fascio, sì, perché nessuno parla del Trentino, nessuno parla del Piemonte, anzi, no, la Liguria, regione anche del nord, anzi, è diventata una regione simbolo della velocità nel ricostruire infrastrutture, quindi è proprio, sì, il male, cioè, diciamo, il bersaglio è esattamente quello. Fermo un attimo, Pino, c'è già Patrizio, sì, da Salerno, cominciamo a sentire qualche ascoltatore, fatevi vivi, 800 24 0024, anche lombardi che fanno parte di questa, di questo sentimento di sentirsi offesi e discriminati, mi raccomando. Patrizio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno ai radioascoltatori. Il suo interlocutore in studio mi ha tolto praticamente il 60% delle cose che volevo dire. Però ragazzi, Nicoletti, Luca, mi perdoni. Quanti libri ha scritto, Pino? Scusa, ho detto 13-14. Sui Terroni, quanti ne ha scritti? Di libri ne ha scritti poco meno di 20, ma sul sud siamo attorno a una decina. Io ne ho letti qualcuno, quindi concordo veramente. Cioè, se c'è un orgoglio sulla... Terrone, diciamo, il portavoce non può essere, che sarà Nicoletti, nei secoli Pino Aprile. Nicoletti, però mi permetta di aggiungere una cosa importante. Questa non è una storia capovolta, questa è una storia. Io mi trovo a 55 anni, orgoglioso di essere napoletano doc, di essere campano, di essere del centro-sud, eccetera, eccetera, a dover fare opera demolitoria sui social contro 15-20 amici che io a Cologno Monzese, Sesto San Giovanni, Bruzzano, Monza. Cioè lei difende i suoi amici di Cologno, difende i suoi amici di Cologno. No, attenzione, cerco di far capire che al di là dell'aspetto sanitario, ciò che ci ha completamente pervaso per 50 anni, e cioè la camorra, il malcostume, in 50 anni la camorra 30 morti accidentali in 40 giorni la mala efficienza lombarda non facciamo questi paragoni, si ammazza più la camorra è un paragone sbagliato secondo me. Ma attenzione, non era un paragone, era per dire che in determinate condizioni in determinati contesti non si può affibbiare a tutte le persone di una certa località un'ingerenza. Io non sono camorrista, io non sono pessimo, io non sono quello che viene comunque costruito nella mente sia dai media che da qualche giornalaio, perché ancora una volta il pessimo Severgnini si permette di parlare di invidia verso la prima della classe, come Feltri parlava dei superiori. Dopo lo sentiamo. Vabbè, diciamo, si sono arroccati nella difesa. Questa non è una storia capovolta, questa è una storia che io fermo un attimo, Patrizio, ho capito, Fabrizio, sentiamo Vincenzo da Milano, così chiudo la prima parte dando un equilibrio. Vincenzo da Milano, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Lei si sente discriminato in questo momento? No, io sono di Milano, vivo a Milano, ma in realtà sono calabrese, di Catanzaro. Come conferma quello che dice Pino Aprile, sì, infatti. Sì, vivo a Milano da 22 anni e... Io sono magari, ho chiamato, ho sentito diverse volte il signor Aprile lì da lei ospite, ho chiamato, ho più che discriminato in questo momento, io mi sono sentito sempre discriminato per via della questione meridionale che non viene, cioè, mai prima come calabrese, adesso come milanese, diciamo, purtroppo è un destino che la segue. Segue, sì. Ma più che altro come calabrese, perché comunque è come meridionale più che altro, perché... Questa questione non viene mai raccontata da nessuno, non si trova in nessun libro, ai miei figli faccio... Ho capito esattamente, lei, diciamo, abbraccia lo stesso filone di rilettura storica rispetto alla storiografia ufficiale sul Risorgimento. Vabbè, questo è un tema già toccato nei 10 libri che abbiamo qui presentato di Pino Aprile, più o meno, sui Terroni. Però oggi, in questo momento, lei avverte questo senso di quasi reticenza nel dichiararsi lombardi, perché se un lombardo va in una città in vacanza, già viene visto come un possibile untore. Questo è sbagliato a priori, ma in realtà corrisponde al fatto che la regione dove è stata più virulenta comunque la pandemia e tuttora, diciamo, registra maggior numero dei casi. Adesso non voglio a questo attribuire delle responsabilità, però in effetti è una sorta di sentimento generale che si porta addosso, o no? O lei dice sono calabrese, lasciatemi perdere. No, il contrario di quello che faceva Battantuono in Eccezionale Veramente, invece che fingere di parlare milanese, accento al calabrese. No, ha perfettamente ragione quando dice la discriminazione quando uno va in vacanza. Io faccio le vacanze a Catanzaro da 20 anni, da quando sto a Milano vado a mare a Caminia. Ma quest'anno che torna, come lo vedono i suoi compaesani? No, non si può tornare, per il momento ho chiamato, ma ha detto aspetta perché ancora non sappiamo com'è la situazione, voi siete lombardi. Sei stato Milano, troppo quindi... lombardo. Vedi che è un paradosso, cioè non è mai esistito, capito, che uno tornasse dal nord e dire no aspetta perché tu sei stato troppo in Lombardia, per adesso non ti vogliamo. Esattamente un mondo capovolto, ma ne parliamo con attenzione fra un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Melog. Bravi, un applauso a tutti gli amici del sud che ieri sera sono scappati via da Milano per tornare a casa a contagiare le loro nonne e le loro mamme. Bravi, bravissimi. Ma anche se fosse stata la psicosi a spingervi a scappare via da Milano, ma cosa pensate di fare quando il virus arriverà da voi? Che dovrete trovarvi davanti alla situazione sanitaria merdosa dei vostri paesi? Le vostre mamme dove le fate curare? All'ospedale di Sapri? Crotone? Caltanissetta? Complimenti, codardi ed irresponsabili, oltre che teste di cazzo. 800240024, questa era una ragazza che aveva colto l'occasione, vi ricordate, la prima transumanza degli studenti, soprattutto meridionali, verso il sud dal nord, che lasciava presagire chissà quale disastro, però in realtà grazie a Dio non è avvenuto niente, però questa ragazza ha preso l'occasione al volo, non sembrava vero in quel momento, nel suo universo pregiudiziale, di dargli contro ai meridionali, tornavano a casa, avevano una sanità disastrata. Poi in questo momento abbiamo visto che non c'è stato bisogno comunque di metterla alla prova, saranno stati bravi, avranno avuto fortuna, dite quello che volete, hanno seguito esattamente quello che erano le norme antidistanziamento, le profilassi, comunque sia, non è accaduto quello che veniva previsto. Abbiamo con noi Pino Aprile, giornalista e scrittore, autore del Male del Nord, perché si fa l'Italia del Sud o si muore, edizione Pieno Giorno, da oggi in libreria, è il 10° libro forse scritto da Pino Aprile su la rilettura della storia vista in una chiave di lettura critica di tutto il Risorgimento. In questo momento Pino Aprile osserva che qualcosa è cambiato. Allora, mi fai un'analisi, Pino? C'ho tantissime telefonate, prima di far sentire il pubblico volevo facevi un'analisi, mi sintetizzavi il senso del libro. Perché si fa l'Italia dal Sud? Quali sono stati gli indicatori che il Covid ha dato forza a quella che è la tua tesi da moltissimi anni, e quale può essere, diciamo, il punto di ripartenza forte di questa esperienza, senza consumarsi adesso in altri 10 anni guerra tra nord e sud? Beh, intanto il Covid è un messaggero, è venuto a suonare la campanella dell'ultima uscita, cioè l'ultima mossa, o si fa così o l'Italia si spezza. E l'Italia non può in chiave apocalittica la vedi te, cavaliere dell'apocalisse. No, ma è così, lo dice anche l'Unione Europea, che nel darci quei soldi ha detto purché li investiate a sud, perché solo da lì c'è un differenziale di sviluppo da recuperare. Lo dice la Banca d'Italia, perché dice ogni euro prodotto in più al sud ha una ricaduta di 1,40 euro su tutta l'Italia, mentre prodotto al nord ha una ricaduta di 1,04 euro. Lo dicono docenti, dal professor Boffo dell'Università di Bolzano a Ponzano dell'Università di Barcellona, ai docenti i Chiarini e il Capasso della Partenope, lo dice lo Svimez, cioè sono tutti rapporti che stanno, lo ha detto persino Carlo Bonomi, che però vuole tutti i soldi al nord. Perché solo il Covid è venuto a dire che il modello di sviluppo concentrato economico. Ma scusa, concentrato, è solo questione poi di allocamento di risorse, o diciamo c'è un discorso un po' più profondo di riflessione in generale sulla necessità di un'unità, che in questo momento di difficoltà sarebbe auspicabile invece che rimarcare nuovamente ancora una volta, come marito e moglie quando litigano, poi alla fine è un rinfacciarsi colpe, ma invece di mettere insieme, diciamo, quello che può essere le risorse per mandare avanti comunque almeno l'aspetto pratico, esatto, della loro unità. L'unico modo può essere questo. Cioè fare i treni dove non li hai fatti, le autostrade dove non li hai fatti, i centri di ricerca con i soldi di tutti gli italiani anche al sud e non solo a Milano e Genova. Cioè si tratta di riequilibrare l'Italia, ma questo comporta cosa? La riabitazione delle aree interne e del sud che sono state spopolate da questa pessima politica delle locomotive di poche megalopoli, ma è un fenomeno mondiale. New York si sta spopolando. Io nel libro cito un bellissimo reportage del corrispondente della Stampa che racconta come è rimasto solo nel suo grattacielo. Tutti quanti da New York, cioè tutti quanti, ma c'è un fenomeno migratorio da New York nelle aree, come dire, vuote del paese. Sta avvenendo anche in Italia, sta avvenendo nel resto del mondo, perché per la prima volta c'è una civiltà che ti consente di lavorare senza doverti recare in azienda, e quindi questo comporta che se tu riattrezzi quei borghi stupendi abbandonati però in modo con la fibra, le strade, i treni, la popolazione italiana, ma ripeto avviene in tutto il mondo, viene meglio redistribuita sul territorio. Lo stesso ministro Franceschini l'ha detto. Dobbiamo ci furono esperimenti dalle parti di Cosenza di fare queste cittadine cablate, adesso non mi ricordo esattamente qual era il paese, un paesino, c'erano soltanto persone anziane che furono i primi a essere totalmente cablati. Fu il primo in Europa, era Soveria Mannelli. Soveria Mannelli, esattamente. A Cosenza c'è un'università attivissima dove studiano sistemi, meccanismi, diciamo, non è che il sud sia contrario. Cioè, l'università prima in Europa per assunzione dei suoi laureati in matematica applicata all'informatica, la prima università in questo in Europa è quella di Cosenza. La NTT Data giapponese, che ha 240.000 dipendenti nel mondo, ha due filiali all'estero. Una a Cosenza, dove sì, proprio centinaia. Ti dico solo velocemente, chi si fa in questo momento? Tu scrivi libri, poi farai il tuo giro d'Italia a presentare i libri, ma nulla cambia. In questo momento mi sembra che noi siamo comunque nel bene o nel male, abbiamo una classe politica in cui, diciamo, l'essenza meridionale è fortemente rappresentata. Non mi sembra che in questo momento ci sia un istinto restio o discriminatorio. Chi è che secondo te in questo momento la persona che vedi come possibile portavoce di questa idea che tu riproponi da anni? In questo momento vedi è universalmente intesa come una soluzione indispensabile. Siamo sull'orlo del precipizio, si riparte ripopolando il sud, ripartendo, ridando vitalità comunque al meridione d'Italia, o se no finiamo nel solito tracollo. Ecco, c'è una persona che tu vedi, al di là delle simpatie e antipatie politiche, che però si sta muovendo in questa direzione concretamente? Mezzogiorno è un ottimo ministro, Pepe Provenzano, è stato vice direttore dello Svimez e da tutta la sua vita, anche se giovanissimo, all'età di mia figlia, studia questi fenomeni. Il capo del governo Conte ha detto che bisogna ripartire da sud, lo stesso ministro Franceschini ha detto che bisogna ripartire da sud. Io proporrei una cosa diversa, bisogna ripartire da quello che sappiamo di noi stessi. Perché questi fenomeni di divisione nord-sud sono fenomeni di errata conoscenza. Per un secolo e mezzo è stato raccontato all'Italia che l'Italia e agli italiani che l'Italia è fatta di due tipi umani. Uno sta a nord ed è bravo, onesto, efficiente, capace, eccetera. Uno sta a sud e è ladro, criminale. Però Pino, tutti i famosi giri elettorali di Salvini, di tutti i mesi che hanno preceduto il Covid, avevano un po' sovrascritto tutto il pregiudizio, diciamo, proto-vetero-leghista, e anche lui andava al sud, dire siete bravi, siete buoni, sono con voi, e era portato sugli scudi Salvini. Sì, Poi se vai a vedere i voti che ha preso, è molto magnificato, cioè lui prende i voti che prendeva la destra estrema prima, Alleanza Nazionale, Movimento Sociale, sono quelli là, e in alcune regioni ha preso meno di quello, addirittura molto meno di quello. Ma ecco, fermiamoci su Salvini. Si sente offeso il Nord adesso dal fatto che riceve delle critiche dal resto d'Italia, che sono le stesse che arrivano da tutto il mondo alla Lombardia. È curioso, e sono le stesse persone che non si sono sentite offese quando il Nord, e il campione del Nord oggi si chiama Salvini, che è condannato per razzismo, ha una condanna definitiva per razzismo, anche il vice della Lega è condannato per razzismo, anche il parlamentare più importante della Lega, Calderoli, ha una condanna per razzismo. Salvini è stato condannato per razzismo per aver chiamato colerosi napoletani e averli insultati anche come terremotati mentre all'Aquila scavavano fra le macerie per cercare i propri morti. Ora, il colera a Napoli 47 anni fa arrivò con una partita infetta di cozze dalla Tunisia che arrivarono pure a Marsiglia, a Barcellona. In meno di 2 mesi Napoli si liberò dell'epidemia, a Barcellona ci vollero 2 anni. Fermo un attimo, Pino. Aspetta, se no non ti voglio togliere la parola, devo far parlare un po' gli ascoltatori, poi ripetiamo con te. Daniele da Milano, cercate di essere telegrafici, così parlate tutti prima della pausa. Daniele da Milano, veloce. Sarò molto telegrafica, buongiorno dottor Nicoletti e buongiorno al suo ospite Pino Aprile. Ah, scusa Daniele, io sono umbro, sono di Perugia, quindi posso sorridere e guardare con filosofico distacco sia il nord che il sud. Molto bene, bellissima Umbria, complimenti, compro prodotti umbri. Sì, non ci vado da 30 anni perché non la posso più vedere, comunque va bene. Comunque io sono di Milano, lombarda da non so quante generazioni, e sono allucinata da quello che sta dicendo Pino Aprile, perché dimostra veramente una scarsa conoscenza di quello che è veramente il Nord. Io vengo da una famiglia di imprenditori che si sono fatti e si fanno da soli al Nord, che lavorano nella loro piccola azienda, che producono, che pagano le tasse onestamente. Ma mica se l'è presa con voi Pino Aprile, Pino Aprile ha detto semplicemente... No, e danno anche i soldi al sud. Quanti soldi dà la Lombardia in generale? Quanti bilanci della Sicilia ha rimesso a posto? Quanta gente viene a Milano a farsi curare negli ospedali nostri, ottimi, io conosco... conosco personalmente... Vabbè, Daniela, scusi, Daniela, però il tema non è questo, se no ritorniamo a dire chi ce l'ha più lungo, se vuoi al nord o loro al sud, non è questo il tema. Il tema in questo momento, sentite questa paradossale onda di discriminazione verso il nord, mi risponda solo a questo, sì o no? Poi dopo i valori del sud nessuno glieli disconosce. L'avverte? Non sento la discriminazione di essere lombarda, io sono arrabbiatissima perché vedo, è come se ci fosse un'invidia. C'era invidia per la Lombardia e allora adesso andiamo bastonati. Bastonano quelli che hanno dato i soldi per concedere i redditi. Vabbè, perfetto, è molto chiaro, molto chiaro. Mi devo fermare un attimo, riprendiamo poi con Letizia da Brescia e Angelo da Bari. Melog. Molta gente che naturalmente è nutrita da un sentimento di invidia o di rabbia nei nostri confronti perché subisce una sorta di complesso di inferiorità. Io non credo ai complessi di inferiorità, credo che i meridionali in molti casi siano inferiori. E addirittura adesso me li fai arrabbiare davvero? No, direttore, non puoi dirlo questo. E chi se ne frega, si arrabbia. Ma chi se ne frega se si arrabbiano? Poi secondo me si arrabbiano tutti i giorni, mi insultano, mi augurano di morire. Questa è una frase che ormai ha fatto epoca, rientra nel folklore delle trasmissioni al tempo del Covid, era Vittorio Feltri, cioè i meridionali sono oggettivamente inferiori, ma non c'è manco bisogno di commentarla. 800240024, ringrazio da Milano Filippo Reggi in regia, Lorenzo Nespoli in assistenza, da Roma Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Parliamo con Pino Aprile del suo ultimo libro che esce oggi, Il male del Nord, perché si fa l'Italia da Sud o si muore. Devo parlare con Letizia da Brescia velocemente. Salve Nicoletti, saluto tutti. Io invito tutti i signori meridionali a lasciare libere le liste d'attesa degli ospedali e a non venire più a farsi curare al Nord, visto che è così pericoloso. Quindi è occhio per occhio, dente per dente lei in questo momento. Avverte il senso di discriminazione. Certo. E ma non come fa a riconoscere un meridionale? Scusi, come fa a riconoscere un meridionale? Perché abita in una città del sud oppure perché, che ne so, semplicemente di terza generazione, pur avendo la residenza a Brescia, però magari genitori e nonni meridionali. Certo. No, io sto parlando proprio di questo bel turismo della sanità, per cui la persona che risiede abitualmente nel sud Italia, per farsi curare come si deve, deve venire al nord, in particolare in Lombardia. Per cui la Lombardia, oltre già a contribuire allo Stato italiano con moltissimi miliardi, me lo insegna lei, oltretutto si deve far carico anche della sanità che mal funziona, e è indubbio dirlo, a sud. Però continuiamo ancora a fare l'elenco di chi è più bravo. Non credo che chi viene a curarsi in Lombardia perché non trova una sanità per le sue esigenze nella città d'origine oggi dica che i lombardi sono tutti schifosi. Ho detto, è un sentimento generale che si avverte non soltanto in Italia, ce l'ha detto Pino Aprile, di respiro internazionale, che improvvisamente, se viene discriminata l'Italia, l'Italia per i suoi stereotipi peggiori, a questo punto si sposta tra andare in tre in motorino senza casco, non mettere le cinture di sicurezza, mangiare la pasta, gli spaghetti con le mani come in Miseria e Nobiltà, via dicendo. Oggi si dice il contrario, sì, sono i lombardi a essere indicati come i portatori dello stereotipo negativo italiano. Ecco, mettiamola così. Angelo da Bari, veloce. Sì, pronto? Sì, l'ascolto. Sì, mi riferisco alle ultime tre voci femminili, l'imprenditrice, quest'ultima di Brescia, quella precedente, quella voce che parlava degli studenti che scappavano da Milano. Allora, abbiamo messo il nome per evitarle problemi, perché sennò la linciano. Certo, non è questione di nomi. Sono veramente allibito da questi tre interventi, perché tutti e tre esprimono con modalità diverse, sia ben chiaro, esprimono un certo sentiment, tutte e tre, nei riguardi della gente del sud. Perché è originale, però, scusi. Ma non è originale questo sentiment? Le curve degli stadi ne erano piene, le barzellette ne sono piene. Come gli afroamericani negli Stati Uniti, no? C'è gente che da generazioni, che infatti sono belli incazzati in questo momento, come vede. Esatto, infatti qui nel sud invece manca ancora questa coscienza delle ingiustizie subite, ma io mi voglio riferire esclusivamente ai dati di fatto. Intanto nella stampa abbiamo visto gli interventi in prima pagina, diciamo, di quel quotidiano dove si parla dei meridionali, altre volte hanno parlato dei terroni, eccetera eccetera. Vabbè, quello fa parte. Sì, lo sappiamo, è normale. Quell'ultimo intervento più gentile, che devo vedere bene ancora, quello dell'ex direttore Ferruccio De Bortoli. Comunque è indubbio, fuori di dubbio, che c'è tutto un sostegno culturale con modalità diverse, con toni diversi, a continuare il solito modello di sviluppo, e cioè le grandi opere, cioè i flussi finanziari si investono esclusivamente al nord, a pagare sono tutti, quindi il nord ottiene poi i flussi, quindi non perde nulla, se paga riprende tutto con i grandi lavori, le grandi opere, i 20 miliardi dell'Expo, i 12 miliardi del MOSE, il 1,5 miliardi del fondo di intervento dei risparmiatori veneti e aretini, mentre quelli del sud possono aspettare, anzi non hanno diritto a nulla, i 100 miliardi dell'alta velocità, la prima grande alta velocità, a un prezzo triplo rispetto agli altri paesi europei, quindi 100 miliardi, 67 non si capisce. Guardi, la prevengo, il bello ancora deve venire, quando poi a bocce ferme si parlerà di tutti gli investimenti, le spese, l'ospedale d'emergenza fatto all'Expo, verranno fuori altri numeri, saranno altre materie, però io torno a Pino Aprile, ma può continuare così? Che è come una partita a carte, che ognuno butta la carta sul tavolo e alla fine non vince mai nessuno. Perché potremmo continuare altre ore. Loro elencano tutto quello che ha fatto il nord per il sud, chi difende un po' il tuo pensiero, e dice, ecco, come se ne esce? Perché sennò continuiamo tutta la vita a far così. Informando, perché gli interventi di quel tipo, dopo quello che abbiamo fatto per i soldi che vi diamo, sono tutti figli di una conoscenza deformata e venduta come tale. C'è un libro importantissimo che è fatto da due sociologi, uno veneto e l'altra Cristante e Cremonesini, Leccese, e che hanno monitorato il TG1, cioè il più importante telegiornale di Stato, per 30 anni, da cui risulta che il TG1 dedica al sud solo il 9% del tempo, nonostante sia però c'è Giorgino che conduce, che è pugliese. Ma per carità, cioè, sono in 30 anni, il 41% del territorio italiano e il 34% della popolazione, ma quel 9% è quasi esclusivamente malasanità e mafia, per cui se ti dicono dal TG1 per 30 anni che tu stia nella Val Seriana o in Aspromonte, che i meridionali sono criminali e sfaticati, tu ci credi? Bene, a quelle persone che sono intervenute, che dice noi diamo i soldi, vorrei ricordare dei dati ufficiali, conti pubblici territoriali, è un ente di Stato pubblico, il quale ha documentato che ogni anno dei soldi che per legge, Costituzione, devono andare al sud vengono rubati letteralmente con carte false, e poi vi dico anche quali, fatte in Parlamento dalle commissioni federalismo e spesa standard, almeno 61-62 miliardi portati al nord. Sono circa 10 ponti sullo stretto di Messina ogni anno. Guarda, mi stava arrivato un messaggio di una signora del sud, dice: le cure fuori regione sono pagate alle regioni di provenienza dei pazienti. Lombardia incassa, grazie alla mobilità regionale, milioni di euro. Spiegalo a quei dementi. Al sud hanno paura del virus, non c'entra il razzismo. Questa forse è la sintesi più felice di tutto quello che si è detto. Non si va lì per paura di prendersi il Covid, che ci sono più possibilità sicuramente di prenderlo. Ringrazio Pino Aprile, mi dispiace, il tempo è quello che è. Abbiamo sempre una trasmissione brevissima, però siamo riusciti ad accennare il tema. Ne avrete profondità comprando il libro di Pino Aprile, Il male del nord, da oggi in libreria. Alla prossima.